Galaxy con Tama più 3. Ah, perché già ne ho detto, perché non stai usando il Galaxy? Infatti non stavo usando il Galaxy lo sto usando adesso. Ah, boh, non mi sono capizzato. E è che la radio mia è sempre in sangue di Ghiani, faccio buoni buoni, corro di buco, avanti di Giulio, sempre quella è la radio, non cambia niente. Ria, chi c'è poi qua, oltre a Luca, qualche altro? È troppo forte così, Romeo, va bene. Per me sei troppo forte, dovresti abbassare un po' il livello. Mettiamolo così, avanza, mettiamolo a... Era 1.5, adesso l'ho messo a 1, va bene così. Sì, un po' meglio, ti puoi anche allontanare, molto vicino sei al microfono. No, come l'MC60, 20 cm. Ma poi a 20 cm tu parli qua? Io sempre 20 cm, no, non ci sto mai sopra attaccato al microfono. Cazzo, 20 cm sei vicino, io ci sto molto più lontano di... No, se no si disperde troppo, già è biota questa stanza. Gappa, gappa, va bene, dai. Rumori non ne sentite, va bene così? Già va bene, no, stavo dicendo a me, io sto usando sul 44 l'Adonis, che non lo facevo usare, però ho fatto le lavorazioni per l'altro apparecchio, non so se sono troppo alto o cosa è successo. No, assolutamente, va benissimo, alla grande. Ok, va bene così, non lascio stare, no, perché non mi ricordavo se l'avessi toccato per attaccarlo all'altro, quello più grande, e i livelli se fossero più, un po' più alti o più bassi. Devo scoprire come si fa a usare il monitor di quell'apparecchio, ancora non l'ho compreso. Non lo so neanche io, non lo usaccio. Già, riprendi. Via, adesso ho attaccato il galassio anche io. Va bene, ottimo per la truppa. KK. Va benissimo anche questo, però ti ringiovanisce troppo, ti fa più voce da ragazzino. Là no, fate gli scherzi, questa è un po' più squillante, l'altra è un po' più naturale come modulazione, però non tenendolo troppo attaccato. Io sono contento allora, se mi fa ragazzino uso sempre questo. Ti fa la voce bianca. La voce... E allora non ne vado nel colore delle voci bianche. Poi quelli della voce bianca. Oh vabbè, guarda il segnale a vedere che do un pochino più di gas a questo Galaxy che mi pare sia 4 watt. Sì, 9.50 però sale un peluzzino di più verso il 60. Guarda a vedere così se sale di più, 1, 2, 3, 4. 9 più 60 sì adesso, puro drupo. Vabbè, uscivi dai, non posso dire a 4 watt, il castellino 25 quasi. Questa è una cosa allucinante, lo stesso i picchi di modulazione che c'ha, io non so se l'hanno toccato, ma credo di no. Però c'ha dei picchi di modulazione allucinanti. No, già si vede che spinge. Devo attenuare adesso, se no arrivi oltre 9.60. Ehi vabbè, noi siamo vicini. Avanti Luca, riprendi. E adesso c'è un gafforato qua. Perché Antonio? No, sono Gianni, non sono Antonio. Sto facendo altro. Cappa, cappa, cappa di Roger. Con una fucilata, una scoppettata quando schiacci il PTT. Ehi, il timer è così, maledetto, cazzo. Ah, proprio neanche il 60 lo fa quel tocco così forte. No, non so perché, non so perché. Quando l'MVP5 lo fa, il timer più tardi lo fa. Infatti c'è un coso inconfondibile, proprio tac, la molla del coso, del PTT. Sì, vabbè, sarà la molla, cosa ne so, sarà il relè. Bruno, non lo so, comunque non dico che sia brutto, anzi, a me non so, che hai schiacciato il PTT, già è inconfondibile, quando i PC2 mi si abbassano le luci di casa. Allora si attacca l'altra bestiolina, cosa sarà? Il freschetto sta diminuendo, ora si ecco per non freddo le mani, mamma mia, mamma di turchi. Sì, perché stasera c'è caldo sconte. Ah, già migliore, ho visto il fine settimana, già giovedì iniziano a salire le temperature perché entrare lì invece, arriviamo a 17 gradi all'ombra, per cui sotto il sole ce ne avrà 22-23. Vediamo un po', dai, che cazzo, domenica, sabato e domenica c'era un po' di freschettino, sono andato a fare un giretto ma c'era troppo freddo, sono arrivato in macchina, c'era il mare Barriera Gozo, in burrasca. Lo so, è così, avanti, doppio. Ehi, adesso Roberto, come ti sta arrivando il segnale? Aspetta, prova. Guarda, vedete. come arriva. Se no dopo più 25 la radio fare il secco strano che faccio un effetto caverna, dai. Dai, non tocco nel cavanzo. Ecco, guarda, c'è il secco, come va? No, c'è ancora, c'è l'effetto cattedra. Chiuso del tutto, avanti. Cosa dico? Che si sente una ventola su. E io la ventola, sì. Ti dico, la radio mi piace di più, non so se questa puoi migliorare con i tuni, è un po' più acuta come modulazione. Calma. Infatti io sono contrario, non mi piacciono a me questi switching e cose, sono sempre con questi ventoli attaccati, preferisco gli altri, a parte per tutti gli altri motivi di affidabilità, che non erano questo grosso che ho io, non ha manco una ventola, ma cacchio, non ha bita, pesa 20 kg, vabbè, però è sovradimensionato, non ha nessun problema, lo puoi attaccare tanto 24-24 e non succede, me ne sono dimenticato un po' di volte acceso, non me ne sono neanche accorto. E ce l'ho anch'io, uno grosso così. Avanti, break! Ciao Claudio, ben sentito in compagnia mia di Claudio, torre di controllo, doppio rummo, Gianni e come si chiama? Luca Del Monte. Ti rilascio prima a Gianni e poi a Claudio. Avanti Gianni per salutare all'amico di Muros. Ciao Claudio, ben sentito, buonasera e cordialità anche a te, avanti. No, sono a casa. C'è Claudio, avanti Claudio per il saluto. Ehi, non c'è problema, già sono qua io. Ciao Claudio Chiodo, buonasera, ben ascoltato, saluto 59 più 20 Radio 5, avanti. Comunque Claudio Muros ti sta aiutando, tu stai spingendo parecchio. Infatti ti sto dicendo, il segnale era abbastanza forte, se 9 più 20, ma infatti ho detto qualche spiccioletto d'aiuto glielo stai dando. Ok, a te Gianni. Ehi, Ma poi si chiama Ruggito che avesse ragione tu poco fa, perché io avevo tutto il power a zero, ci avevo del Galaxy, capito? Magari anche quello è dovuto anche a quello. Oh, yeah. Tante volte lo abbassi, poi non ti ricordi di alzarlo e sempre due candy bisogna stare. Mi sa che lo lascio così e non lo tocco più. Non so cosa facevano DJ prima nelle discoteche. Non sto scherzando perché ne ho visto tanti, però sollevare troppo quelli tecnici quando regolavano tutto l'impianto, li mettevano nello slider, nel master, una fitta, bloccava, vedi così non alzi. Io sto scherzando, mi facevano tante fotografie perché spaccavano pure degli altoparlanti, soprattutto i Twitter che hanno iniziato a caricare cose, li mettevano al blocco, più di così non puoi sollevare, così ti devi mettere al blocco tu, una fitta o quasi buoni silicone, mazzi, cioè quello che vuoi, non tocchi più niente già. Una volta che hai regolato, lascia stare, così anche tu, come si chiama, radio di muro, una volta regolato, non tu che di nulla, lascia stare, la radio va bene e rimarrà sempre così. Sì, vabbè, ma a secondo di come lo usi lo devi regolare. Un attimo qua. Male che devi farlo. Chiamo Ruggito, allora. Lasciando ferma le radio si rovinano più che usarle, è normale, poi se le metti in posti umidi ancora peggio, quindi è sempre meglio tenerle in posti asciutti e usarle le radio. Vai Roberto. Sì, la normalità fa male a tutto, fa male alle persone, alle cose elettroniche, è ancora peggio, soprattutto le parti tipo potenziometri, trimmer e cose del genere. Magari se c'è un transistor o cose del genere non li va di nulla, però sulle parti deteriorabili dove ci sono parti in movimento, mobili, crea dei problemi. Lavatela bene con la trielina, poi la asciughi bene con un fondo, se c'è anche della carta igienica dalle parti umide ripassi prima la carta igienica e poi con un fondo solo aria fredda, non buttare aria calda, se no crea altri problemi. Asciughi bene e vedi se le soldature sono tutte belle efficienti, guardi dietro se c'è qualche cosa di ossidazione, se no le rifai e vedi che ti è andata alla grande. Gianni forse si è allontanato. Ozzeri, come arrivano furti da Ozzeri? qualche volta con Mozzeri io ci ho parlato, vabbè adesso non sto entrando così in tardi, ma era capitata, adesso non mi ricordo, come si chiama di nome questo Lima 1? No, e tu quanto gli arrivi di lì, da dove parti? Mentre loro quanto ti arrivano a te? Facciamo un attimo il bianco, se vuole entrare qualcuno, se c'è Claudio o Gianni. Claudio, ci sei? Sì, fate, sto facendo cosa. Eia, arriva una cosa, quindi tutti e due allo stesso segnale arrivano quelli di Otteri. Adesso c'è qualcuno che forse vuole entrare avanti, forse ti troviamo qualcuno, qualche portantina, vabbè, come non detto. L'altro è rimasto, cosa c'hanno? Antenne grosse c'hanno questi qui da Ozzio. Thank you. faccio un attimino di bianco e poi riprendo di nulla. Perché abbiamo provato anche in FM, magari in FM c'è meno problema di QRM, magari si riesce ad andare anche un po' più lontano. Ce n'hai le radio che c'hanno tu o le FM? Quindi chissà se sono io, Claudio e Fabrizio riusciamo ad arrivare lì. Importante 10 watt, magari di cose modulate ne arriva di più, però è importante, ma la canale vorrei provare, che dire già mi posso far sentire, dai, e anche in FM tira fuori qualcosina in più questi giocattolini, così li posso farmi sentire bene. Volentieri, se capita, volentieri, se ci siete tutte le notti provo, diciamo, allora, vabbè, a parte oggi c'è la partita, domani idem, magari se c'è qualche buco così e mi viene voglia, ben volentieri, dai, è sempre un piacere fare collegamenti a lunga distanza. Allora io parlavo con Coso, con Bundusotto e con Pinocchetto il Moro. Attimino di bianco ancora e poi se c'è ancora Claudio il doppio numero li faccio aumentare, 2 secondi di bianco. Nulla, Claudio, hai terminato tu quello che stavi facendo? No, io sto lavorando qua, dai, continuate, già vi sto ascoltando. Ehi, dottor Rumo, ci sei? Dottor Rumo si è allontanato, probabilmente c'era Luca Del Monte, ci sei ancora Luca? Vabbè, dai, lasciamo perdere. No, adesso quando c'ho tempo mi metto l'altra antenna, vediamo di fare anche noi, di farci sentire, senza aumentare potenza, è sempre uguale, però con un'antenna più performante. Ma appunto dall'altra parte, verso sud, vediamo cosa si riesce a fare. Vabbè, da quali siete fuori, se siete presente, la migliore acqua che abbiamo in Sardegna, come quantità di coso, di sodio è più bassa di tutti, per cui è un'acqua ottima rispetto ad altre. Dovete stare attenti a non bere stamattina acque così molto, molto pesanti, smeraldina, che sono ricche di sodio, per cui se tuo padre soffre di reni, di calcoli renali e cose del genere, sicuramente l'acqua di coso siete fuori è la migliore di tutti, perché è leggera. Le altre, al contrario, sono ricche di sale, per cui accumuli, voi acqua gasata bevete, tipo San Martino o cosa del genere. Quando vuoi non ti preoccupare, sempre lì a due passi. Comunque, continuando al discorso delle acque, l'acqua Sette Fuentes c'è un'acqua a basso contenuto di sodio, per cui assolutamente più ne beve meglio è rispetto a bere altri tipi di acqua. Assolutamente il contrario di quello che stai dicendo tu, non è l'acqua che le ha dato problemi, quell'acqua lì, perché quantità di sodio, residuo di sodio è molto inferiore rispetto a qualunque altra acqua che abbiamo in Sardegna, tipo San Giorgio, Smeraldina, eccetera, eccetera. Non parliamo di San Martino, che quella è fuori legge, diciamo, come valori esageratamente alti ce li ha, per cui quell'acqua c'ha quel gusto salato, e per cui ti viene tanta sete, c'ha 750 microgrammi litro, è una cosa fuori dalla norma, mentre le altre acque... sono rientrato... Ma io voglio capire una cosa, ma non è che ha bevuto acqua inquinata tuo babbo? Ti ripeto, l'acqua migliore che abbiamo in Sardegna, Sette Fuentes, quell'acqua che stai nominando tu, Quercetta, Federica, San Giulio, sono tutte le stesse acque di Zinigas, loro fonti di Zinigas, ma è acqua di pozzo, non c'entra niente, la sorgente, le cambiano solo il nome ma la stessa acqua. Quella lì non ha niente da che vedere con l'acqua di Sette Fuentes, parliamo come qualità d'acqua, è la migliore acqua che abbiamo in Sardegna, Sette Fuentes, come valori di sodio, di residuo fisso, eccetera, eccetera. Per cui non credo che assolutamente sia un problema di acqua, ma che non era inquinata, magari conservata la luce del sole, magari in una bottiglia in plastica, perché se vedete quando la lasci più di un certo tempo alla luce del sole si formano dei batteri nell'acqua, e per cui non è qualunque acqua, anche la migliore acqua del mondo, se la tieni alla luce, no? Poi magari è sempre la stessa bottiglia in plastica, per quello è bene conservarla in bottiglia di vetro, in pozzi dove non ci sia luce, se no fermenta all'interno e si forma con la pellicina, non so se l'hanno attacca di cosa, di batteri o di erbacea, chiamiamola volgarmente. Assolutamente l'unico problema, se ha preso un'infezione urinaria può essere un'acqua inquinata, perché sicuramente l'acqua del Sette Fuentes è molto meglio di quella Quercetta che hai nominato tu. I carciofi la stessa cosa, è il ferro che vi ha fatto male, capito? Troppo ferro, le cose esagerate fanno male. Non c'entra niente l'acqua, soprattutto se è utilizzata, non l'hai presa quest'acqua Sette Fuentes? Sì, no, ma voglio capire, siccome l'acqua a Sette Fuentes è difficile trovarla in commercio, non la trovi facilmente. Sei sicuro che la Sette Fuentes l'acqua? È rara a trovarla quell'acqua, è rara a prendertela tu con le fontanelle. È molto meglio di quell'acqua che hai nominato tu, Quercetta, Federica, Boschetta, San Giorgio, è tutta la stessa acqua, cambiano l'etichetta solo perché per questioni commerciali, perché c'è dire allo Sciara la chiamano Quercetta, allo Sfì la chiamano Boschetta, all'altro Federica, per questioni di mercato, per non avere la stessa acqua, fanno dei contratti le ditte che distribuiscono l'acqua, però non è cattiva l'acqua San Giorgio, ma c'è di meglio, in Sardegna abbiamo ben di meglio sicuramente, e quella che sto dicendo io, quella che hai nominato tu, è la migliore acqua che abbiamo in Sardegna, naturalmente se non è inquinata da qualche cosa è conservata in posti dove si deve conservare, perché tu l'acqua se la metti buttata in strada, all'aria aperta, alla luce del sole, in un mese la deteriori, la migliore acqua del mondo. Ok, già ne riprendi tu il mic a te. Kappa, no, io già la tengo in veranda chiusa e già va bene così, ma al minimo ne devo avere sempre 10 casse di acqua io, perché l'acqua non deve mai mancare, c'è gente che beve, coso, ma poi se ne benissimo troppo ferro che avete mangiato tutti in una volta, tra asparagi e carciofi, che contengono ferro tutti e due, e magari vi ha fatto male perché era in eccesso il ferro, capito? Magari tu l'hai resistito di più, o ne hai mangiato di meno, e magari ma buona maniera di più, e gli ha fatto male, dai, e succede, dai. Quando, guarda che anche la stessa acqua, se si esagera bevendo, ti fa male. Io dalla troppa acqua, mia sorella purtroppo se n'è andata, perché beveva molto e non capivo la cosa era, e praticamente era dovuta a un diabete insipido che non avevano mai constatato che fosse quello. L'hanno capito solo dopo, esclusivamente, quando è entrata in coma. Oh, a me mi piacciono dopo, quando ne prendi spazza da me che mi piacciono, vabbè sto scherzando naturalmente, ma poi che stai attento ai carciofi quando li compri, se non è gente sicura usano molti prodotti per questioni di fertilizzanti e cose varie, non parliamo di protettivi e cose del genere, e di lì bisogna stare molto ma molto attenti, perché io ho amici che producono carciofi e me l'hanno spiegato bene, che c'è gente che fa i furbacchioni per farli belli grandi. grandi, puliti e cose, quando lo vedi troppo bello e pulito, il carciofo hanno usato dei prodotti di protezione, per cui bisogna stare molto attenti a chi si prendono. I prodotti di protezione, ci sono cose di un certo livello che costano un sacco di soldi e cose economiche che sono assolutamente dannose per l'organismo. Degli asparagi ne dubito che ti abbiano fatto male, ma che non ti hai mangiato una cassetta, perché se le raccolti tu penso che non siano inquinati, è più probabile che siano inquinati di carciofi. Ok, però dell'acqua io non c'entra niente, il discorso dell'acqua di Sette Fuente, si lascia perdere, non ci credo assolutamente, a meno che, come ho detto prima, non è inquinata, ma ne dubito, se è conservata in pozzi suoi non si rovina. Io acqua a casa mia, sarò 20 anni che non bevo acqua in bottiglia, quando vado da altre parti la bevo, io ho il depuratore con i carboni attivi, uso acqua di condotta che è la migliore acqua che c'è in circolazione, se lo può dire qua l'amico Claudio. I valori che hanno quelle acque di condotta non ce l'ha nessuna acqua in commercio, solo l'acqua Sant'Anna si avvicina, tutte le altre acque se lo sognano, quei valori perfetti di tutte le cose, di tutta la componentistica, parliamo di tutti gli elementi che la compongono l'acqua. Usi il filtro suo, io ti sfido, portami qualunque acqua, facciamo la prova a chiunque, io ti faccio assaggiare l'acqua mia e poi assaggi qualunque acqua e tu dici cavolo, ma questa c'ha un sapore diverso, strano, e tu l'hai sempre bevuta quella, ti faccio sentire l'acqua mia e dici cavolo buono, non mia perché non è mia, nel senso a casa mia, ho fatto delle scommesse di gente, io bevo San Giorgio, io bevo Smeraldina, tu ti faccio assaggiare un'acqua e poi confrontiamo, temperatura giusta naturalmente, uguale temperatura perché non è che una è calda e l'altra fredda, e ti dimostro che l'acqua che abbiamo a Sassari, il rubinetto è una delle migliori acque che c'è in Italia, a parte qualche problema di condotta fucinosa, rugginosa, vabbè, stavo cercando di sistemare, però l'acqua che noi abbiamo, io ce l'ho abbastanza vicino alla nostra terra. Accidenta, ohia, vabbè, comunque io di quell'acqua lì del rubinetto non mi fiderebbe, no, ci mettono cloro, ci mettono un sacco di roba, ci sono i filtri, vabbè, i carboni attivi che tolgono i metalli pesanti, però sempre acqua del rubinetto e poi se vai dove la prendono l'acqua a Birighinzu, ci sono di tutti animali morti dentro, tutto cazzo, fa carità. E vedi di cosa una volta c'era una mucca morta dentro il bacino. Anche nelle acque imbottigliate c'è l'ipoclorito di sodio, Giacomo. Cosa qua? Sì, anche nelle acque imbottigliate c'è l'ipoclorito di sodio, altrimenti non possono imbottigliare perché i valori sono quelli. Così è. E vabbè, noi beviamo, non sappiamo che cosa beviamo sinceramente. Comunque anche quella di Tempio dovrebbe essere buona come acqua. È un po' pesante già, l'acqua di Tempio, l'acqua soprattutto di Rinaccio, così chiamata, è esclusivamente proprio la danno per, la consigliano per chi ha problemi di calcoli, capito? Altrimenti non bisogna berla perché te li crei problemi. Ha detto bene Claudio. L'acqua di Rinaggio è molto ferrosa. E anche quella di Irula, quella zona di Irula, lo stesso è così, quella zona lì è tutta così, è molto ferruginosa l'acqua. Ma te ne accorgi dal gusto, perché il granito è ricco di ferro, c'è tanto ferro. I carboni attivi, attivi presente che l'acqua che mettono in condotta, se lo sa Claudio, ce lo può spiegare bene lui, ci sono i sistemi elettronici di controllo, se c'è qualche valore sballato, loro la correggono l'acqua, mettono i valori, se ci vuole un po' di sodio, ci vuole un po' di altri metalli, di cose, loro fanno tutti, cioè le composte lo fanno ed è assolutamente pulita l'acqua, parliamo alla fonte, poi se c'è qualche condotta rugginosa e vicino ti scaricano un'officina di meccanica, olio nero, quello è un altro discorso, parliamo alla fonte, l'acqua che abbiamo a Sassari, non detto da me, la rivista Altro Consumo era la seconda acqua più buona d'Italia, c'era solo, mi sembra, ad Asti, migliore della nostra, in assoluto era la seconda migliore acqua d'Italia, parliamo di qualche anno fa, non lo dico io. Cioè abbiamo dell'acqua ottima, poi naturalmente se poi vai a certi pezzi del centro storico di lì magari c'è qualche falda inquinata, qualche passaggio ti entrano con le contaminazioni, ma quello è un altro discorso, parliamo di acqua di per sé, l'acqua no, che c'ho io e ci abbiamo quasi tutti a Sassari è ottima, utilizzi i depuratori a carbone attivi per toglierti quel pochettino di cloro, eccetera, eccetera, e l'acqua è eccezionale, e sfido, io la tengo in bottiglia, la tengo nel bottiglia di vetro, di vero non c'è bisogno di metterla in frigo, ma di giorno fatto, la metto in frigo ed è eccezionale, molto migliore di qualunque acqua. L'unica acqua che si avvicina, dico che si avvicina, l'acqua Sant'Anna che tirano su in Trentino, che è quella dalle Alpi in alto, nelle Dolomiti, quella è l'unica acqua che si avvicina all'acqua che mettono in condotta. Le altre sono tutte miscugli, qua in Sardegna la migliore è l'acqua che c'è di Sette Fuente, tutte le altre, San Giorgio, Smeraldina, non parliamo di San Martino che c'è un residuo di sodio spaventoso, la gente piace perché ti dà quel sapore salattino, però se deve arrivare meno, no? Non pensare che sia acqua di qualità, se mangi e bevi un anno quell'acqua ti vengono i calcoli renali peggio di un granito dentro. Oh, Robe, o stai parlando troppo a voce alta oppure sei troppo alto di radio, stai... non si capisce, sei un po' impastato quando parli. Vabbè, comunque sì, è così, la Smeraldina la danno soprattutto a chi è malato di rini, questa gente qua, però anche l'acqua di condotta a volte, cavolo, arriva tutta arrugginita, tutta col colore della ruggine. Addirittura su Facebook ha messo questa ragazza, ma io devo lavare mia figlia con quest'acqua secondo voi, ha messo il colore dell'acqua che c'era nella vasca, era color marron proprio. Ascolta, dai, vi rispondo perché sto sentendo un po' di fesserie, la verità. Tanto Gianni, il bidighizzo non arriva niente al bidighizzo, c'è un potabilizzatore come noi abbiamo troncoreato. L'acqua grezza arriva dal Coghinas B e basta, non abbiamo altre fonti purtroppo della provincia di Sassari. Va bene. Quindi arriva l'acqua grezza a tutti i potabilizzatori di tutta Italia, arriva l'acqua grezza, dopodiché il potabilizzatore, si chiama potabilizzatore perché deve potabilizzare l'acqua. Nel potabilizzare l'acqua la grezza entra nei chiarificatori, ok? Entra nei chiarificatori. Automaticamente nei chiarificatori iniziano a rientrare i reagenti. Il primo reagente che entra è il manganese e il ferro, ok? Dopodiché dal chiarificatore che va nella parte del canale d'uscita, ok? Lì inizia a clorare l'acqua, ma tutti i parametri di qualsiasi tipo di reagente non sono messi così, ci sono delle misurazioni ben precise tarate dall'ASL, non è che uno deve dire stronzate, ok? Quindi quando arriva la grezza ai potabilizzatori, noi abbiamo per dire il potabilizzatore del Bidighizzo, che non è una fonte, l'acqua arriva sempre dal Coghinas, il Bidighizzo è un potabilizzatore, come quello di Montagnese, come quello di Truncoreale, come quello di Pedra Maiore, che sono i quattro potabilizzatori della provincia di Sassari, che erano sino a 950 litri a secondo, ok, non a minuto, a secondo, con condotte da oltre 600, quindi tutte le volte che si potabilizza l'acqua e all'interno di ogni potabilizzatore c'è un biologo e un perito chimico, un biologo e un perito chimico che controllano l'acqua, sono automaticamente, devono prima di mandarla in rete mandare il campione all'ASL. Se l'ASL riscontra i parametri giusti fa erogare, se l'ASL non riscontra i parametri giusti non può erogare l'acqua, perché Sassari continua a rimanere senza acqua. Sono stronzate, non è un problema di condotta, è un problema di potabilizzazione. E tu spiegami come mai a volte l'acqua ha sapore di varechina, probabilmente sbagliano l'acqua da mettere di prodotto, perché a volte l'acqua ha odore di varechina. Ma chi sbaglia, Gianni? Non c'è nessun nanetto che sta lì a mettere il cloro, non lo chiamare cloro perché il cloro è la varechina che usiamo i pavimenti, si chiama ipoclorito di sodio, quindi non c'è nessun nanetto che va lì a mettere in vasca l'ipoclorito di sodio, non esiste, ci sono delle pompe dosatrici tarate e piombate dall'ASL. Può succedere, può succedere, perché te lo dico per esperienza vissuta, che nella notte tra il caldo e il freddo si possa rompere la pompetta che aspira dal serbatoio dell'ipoclorito e quindi automaticamente non va più a dosaggio, va per caduta. Andando per caduta chiaramente superi i parametri previsti dalla legge, che il massimo su un potabilizzatore è 0,1 millilitri grammo per secondo in base alla portata dell'acqua erogata. Quindi può succedere che si rompa una pompa e quindi, non andando più ad erogare lo stabilito, quello che la legge dice, va per caduta. E a volte ho visto anche serbatoi vuoti da 1000, 1500, 2000 litri di ipoclorito erogati durante la notte perché si è rotta la pompa. Può succedere, ma toglietevi dalla testa che l'acqua del rubinetto non sia con i parametri giusti. Quindi adesso dovrebbe essere potabile l'acqua del rubinetto. È certo che è potabile, mio suocero è morto a 90 anni e beveva solo esclusivamente acqua del rubinetto, non ha mai avuto calcoli, non ha mai avuto niente, ok? È morto perché aveva un problema al cuore. Posso dire una cosa? Allora, stiamo parlando da un esperto del suo zitto e sta dicendo le cose che io so, perché le ho lette e perché le so. Allora, una cosa che voi non sapete, a parte Claudio che lo saprà sicuramente, tutte le acque che ci sono in commercio, a parte l'acqua Sant'Anna, in Italia, non parliamo del mondo perché ho visto le comparazioni, ci sono in Italia più di 1000 etichette di acqua, non pochi, 1000, sono più di 1000, hanno fatto tutti i valori di tutte le acque che ci sono in commercio in Italia, tranne la Sant'Anna, tutte le acque che ci sono in Italia commercializzate, imbottigliate, nessuna di queste acque ha i parametri che si avvicinino, non che uguali, che si avvicinano ai parametri di potabilizzazione che c'è l'acqua di rubinetto, sono parametri che assolutamente non possono essere messi in coso, in circolazione in acqua potabile. Nell'acqua imbottigliata te li permettono quei valori, in acqua su un potabilizzatore, come sta dicendo Claudio, assolutamente sono fuori norma, ma non di una volta, in certi casi anche di migliaia di volte, perché il valore per legge del coso, di quantità di sodio per litro di un'acqua per un bambino, deve superare 3 microgrammi litro di sodio. Lo sai quanti ne ha l'acqua San Martino di sodio? 750. Il residuo fisso non deve superare 300, San Martino ne ha 1300. Stiamo parlando di valori assolutamente fuori da norma di acqua di condotta. Noi ci continuiamo a bere l'acqua in bottiglia convinti che sia migliore. Assolutamente no. Tutti i valori vengono controllati ogni anno, ogni 6 mesi, ogni 3 anni. L'acqua di condotta, dilli Claudio, ogni quanto tempo la controlla? Ogni 24 ore, ogni 12 ore. State scherzando. In ogni potabilizzatore al turno di notte ci sono 4 conduttori alla conduzione, poi ci sono in laboratorio 2 chimici. Non si scherzano queste cose, ragazzi, perché si chiudono, non è la prima volta, io ho assistito, non posso dire dove, ma in Alta Gallura, dove è stato chiuso l'impianto per 3 giorni perché non si riusciva a mettere a norma proprio il chiarificatore, appunto dell'uscita, perché era sempre fuori norma. Alla fine chiaramente con i chimici sono riusciti a metterla a norma e l'hanno riaperto. Non si può erogare l'acqua se non è a norma, ragazzi, non esiste una cosa del genere. Era San Gimmi, la panna, quella che si dà ai bambini, Roberto, eh? Allora, sono acque buone, però ti dico, la panna che noi l'abbiamo data ai bambini, San Gimmi, eccetera, eccetera, si avvicinano ai valori che sono molto più restrittivi, i valori dell'acqua di condotta, ma molto più restrittivi. Ti ripeto, l'unica acqua che si avvicina, io ho tutte le tabelle perché me le hanno mandate, scaricate, di tutte le acque in Italia, sono tanti fascicoli, l'unica acqua che si avvicina è l'acqua Sant'Anna. Poi c'è un'acqua in Trentino, la danno per persone molto, di quelle che hanno problemi di tumori e cose del genere, che fanno il controllo ogni ora, gli danno la bottiglia di vetro non riciclata, non prende luce, un sacco di storie. Quella qua la prendono in farmacia, non so quanto costa al litro, è un'acqua particolare. Quella è l'unica acqua che hanno dei valori simili, che si avvicinano, che sono altamente restrittivi i valori dell'acqua di rubinetto. Noi parliamo all'uscita del potabilizzatore, poi se c'è la condotta ruggino cosa, c'è il meccanico che ti butta l'olio vicino, oppure c'è una leva remota, una serbatoio io vicino di casa tua, eccetera eccetera, ci sono residui fecali, quello è un altro discorso. Noi stiamo parlando all'origine, dove arriva l'acqua e dove viene controllata, come sta dicendo Claudio, di lì è assolutamente potabile, con dei valori assolutamente bassi, assolutamente regolari, come dice l'Istituto Mondiale della Sanità, deve avere quei valori lì, la puoi far bere anche a un bambino neonato quell'acqua lì, parliamo all'inizio. Il problema è dopo, ci può essere una condotta che non è efficiente, ci sono dei valori, però qualunque acqua che abbiamo in commercio, tu leggi il residuo fisso dell'acqua San Giorgio, no San Giorgio, San Martino, che è buonissimo, a tutti piace, e il valore di coso, di sodio, di cacchio, se devi, non devi superare il 3, la cosa mondiale della sanità dice per i bambini non devi superare il 3, e San Martino ne ha 750 di residuo di coso, di sodio, cioè di quantità di sodio, tu la bevi che è buona, pluripremiata nel mondo per il gusto, e sono il primo a berla, però se tu bevi solo quell'acqua lì, in un anno ti vengono dei calcoli renali grandi quanto una pietra di quanto un cantone, per cui lasciamo perdere. Noi siamo fissati, la gente, non so quanti soldi si risparmierebbero se tutti bevessero l'acqua di rubinetto col depuratore, senza bottiglie, sarebbe per l'umanità, solo in Italia siamo i più grandi consumatori al mondo di acqua in bottiglia, in Italia. Se tu vai negli Stati Uniti nessuno ne consuma, tutti hanno il depuratore a casa, chissà baloso. Un attimo, io sono andato a portare il cane, Roberto, un discorso lungo, perché quindi tutta la popolazione la pensa al contrario, detto questo qua, perché tutti prendono, preferiscono prendere l'acqua in bottiglia pensando che quella di rubinetto faccia male. La maggior parte delle persone fa così, diciamo io non ne uso acqua del rubinetto, anche per cucinare uso acqua delle bottiglie. Allora noi stiamo parlando di acqua pulita, non stiamo parlando di acqua di campagna, di pozzo e cose del genere, dove ci possono essere altri, tanti problemi, parliamo di un'acqua di condotta dove siamo sicuri che è pulita, che l'acqua è di gran lunga migliore. Io ti sfido già, se capita, ti faccio assaggiare l'acqua mia, non mia, l'acqua di Sassari, e poi tu mi porti una qualunque acqua che vuoi, scegliti qualunque acqua, io ti dimostro facendotela assaggiare, non per il profumo del coso, che è 10.000 volte migliore l'acqua che beviamo dal rubinetto, ma non per, oltre che per il gusto, per tutti i valori che ha detto Claudio, fanno delle regolazioni, mettono dei composti che ti fanno tutte le regolazioni ottimali, cioè è come che tu c'hai un amplificatore che sta ascoltando la musica equalizzata perfettamente con tutte le cose, e poi ascolti la stessa cosa con un amplificatore con i bassi a manetta, gli alti a manetta, tutto modificato, la musica distorta. Qua stiamo parlando di acqua, una cosa che ci beviamo, l'acqua di rubinetto di Sassari in particolare è eccellente. Poi quando ti arriva, adesso ce lo spiega Claudio, che io lo so più o meno, quando arriva l'acqua nera, che è arrivata anche a me l'acqua marrone, spiegali Claudio da cosa dipende. Guarda, possono essere tanti fattori, ripeto, perché tutti i potabilizzatori purtroppo hanno bisogno di manutenzione. C'è un dato di fatto che su Sassari, su Trunco Reale, l'impianto Trunco Reale è l'impianto più vecchio che abbiamo in Sardegna, non dico in provincia di Sassari, perché gli altri si sono tutti adeguati. Quindi ci sono molte cose che possono succedere, ma non è derivato dalla condotta, perché una volta che l'acqua arriva in condotta, arriva soprattutto alle stazioni di pompaggio, che è la nostra, è quella di Sassari e Monte Oro. Una volta che arriva lì dal potabilizzatore di Trunco Reale, è ancora filtrata. Quindi è un problema chiaramente di base, che è quello dove alcune zone di Sassari hanno ancora le condotte vecchie in tubi di quelli vecchio cemento amianto, vecchi, i tubi vecchi, quindi automaticamente staccando la portata, aumentando la portata, facendo chiusure eccetera, una volta che poi tu mandi pressione, dai tubi stesso si staccano tutti quei residui che ci sono di sporcizia, di ruggine, di calcare eccetera, e vanno a finire in rete, e lì il problema. La merda, e dunque tutto quello che hai detto tu è giusto, Claudio, io sono d'accordo con te, però ciò non toglie che dal rubinetto scende sempre acqua sporca, perché io ho anche dei bidoni come provvista, no? Visto e considerato che ogni tanto manca l'acqua, presa dal rubinetto quando l'acqua sembrava bella, pulita, limpida. Beh, ti faccio vedere il bidone, che nel fondo c'è sempre il residuo. Beh, tutto questo che cosa significa? Per non parlare poi di qualche anno fa, che per persone a me molto care, l'hanno fatta analizzare, una bottiglia d'acqua, l'hanno fatta analizzare all'università e l'acqua non era potabile al 100%. Sono d'accordo con tutto quello che hai detto tu, che arriva da tutte le condotte, potabilizzatore, eccetera, che va benissimo, d'accordo. Però io so solamente questo, che al rubinetto arriva quasi sempre sporca, non è mai limpida, perché tu prendi un bicchiere d'acqua la sera,